Salva Danaio. Le 12:15 minuti, buongiorno da Roberta Pellegatta, ben trovati a Salva Danaio anche per questo 1° aprile 2011. E i clienti del mobilificio Iazzone, questo pesce d'aprile, chiamiamolo così, proprio non se l'aspettavano. Mai avrebbero pensato che la cucina, la camera da letto, il nuovo mobile per la televisione, insomma, quel che è acquistati, mai sarebbero arrivati ad abbellire la casa, mentre i bollettini per i pagamenti a rate sì. E invece, l'abbiamo letto sui giornali, questa amara sorpresa si è verificata. Lo storico mobilificio, nato circa 30 anni fa, il cui marchio è stato rilevato nel 2008, si è reso protagonista di una truffa che ha coinvolto oltre gli 850 dipendenti anche circa 13.000 clienti. Dunque, migliaia di famiglie hanno acceso finanziamenti e iniziato a pagare rate per merce che non vedranno mai o che hanno visto solo parzialmente. Che fare in questo caso? In generale, a cosa fare attenzione quando si stipula un contratto di credito al consumo? Di questo parliamo oggi a Salva Danaio e lo facciamo con Eustachio Allegretti, presidente di Assomea, che è l'associazione italiana dedicata ai mediatori creditizi, in linea con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. E sempre al telefono c'è l'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione Casa del Consumatore, benvenuto. Buongiorno. Naturalmente, come sempre con noi in questi tre quarti d'ora insieme ci saranno anche i nostri ascoltatori, quindi l'invito a chiamare se hanno delle domande al numero gratuito 800 24 00 24 oppure a mandare un sms al 349 238 6666. Vieni, vieni, vieni da Iazzone, quanti mobili troverai. Vieni, vieni, vieni da Iazzone e da casa quale avrai. Vieni, vieni, vieni. Da provare per credere ai furbetti del comodino. Potrebbe essere definita così la parabola di Iazzone, il mobilificio nato 30 anni fa, ora al centro delle cronache con i vertici accusati di bancarotta e riciclaggio. Una vicenda che in un modo o nell'altro vede coinvolti anche 13.000 clienti che, dopo aver pagato mobili o aver acceso finanziamenti per saldarli a rate, si ritrovano ora senza tavolo o comodino. Le famiglie raggirate e imbrogliate scalpitano. E così le associazioni di consumatori, che continuano a raccogliere segnalazioni e richieste d'aiuto. Per il momento è stato confermato il blocco delle rate future, ma solo per coloro che non hanno ricevuto alcun mobile. Per chi invece ha avuto consegne parziali, si dovrà discutere caso per caso. I nomi resteranno nelle banche dati delle centrali di rischio, ma con una postilla che rimanda chiaramente al caso Iazzone. 800 24 00 24 per gli sms 349 238 6666. Tra poco vedremo quali sono le possibilità che i clienti truffati hanno per riavere il denaro speso e come devono muoversi. Ma prima ripercorriamo velocemente la vicenda Iazzone per capire come si è potuto arrivare a tanto. Avvocato Ferrari, lei che ha seguito il caso da vicino, questi i furbetti del comodino sono in carcere. Accuse, bancarotta fraudolenta, evasione fiscale, riciclaggio falso, giusto? Vari passaggi di proprietà di società per far sparire i debiti, castelli societari con società estere e poi mancato pagamento di fornitori, mancata consegna ai clienti, mancato pagamento dei dipendenti, insomma una brutta storia che ha ormai dall'autunno che se ne parla, prima c'erano dei problemi di consegna, qualità scadente della merce, oppure ritardi nelle consegne o mancate consegne e poi pian piano è degenerato con la chiusura praticamente di tutti i mobilifici svuotati di ogni mobile. Quando è iniziata questa vicenda? Quando i clienti hanno cominciato a sospettare perché non vedevano arrivare la merce o comunque arrivava con molto ritardo? Ma i primi problemi hanno incominciato a manifestarsi sul finire, almeno per quanto è stato segnalato a noi, sul finire dell'estate 2010, e poi sempre peggio nell'autunno e poi è esploso decisamente con l'inizio del 2011. E stiamo parlando di Iazzone e di Mlunga. Esattamente, perché sono due marchi che poi sono confluiti sotto proprietà Pammedia, la quale è subentrata da alcuni mesi, dall'estate dello scorso anno, e però lungi dal migliorare la situazione è andata ulteriormente degenerando. Insomma, questi signori continuavano a fare la bella vita perché si parla di auto di lusso, di aerei e cose del genere, mentre appunto i clienti andavano a comprare mobili che mai avrebbero visto. Sì, poi la cosa brutta è che chiunque può avere problemi finanziari, ci mancherebbe, è un periodo di crisi, però assumere impegni, aprire finanziamenti, acquisire caparre, ben sapendo che poi le consegne non saranno fatte, saranno fatte solo parzialmente, allora qua ci sono effettivamente dei risvolti che portano a qualificare come truffa questo comportamento. Ecco, noi leggiamo di circa 13.000 clienti in tutta Italia, è verosimile questa cifra, insomma, corrisponde a quello che lei sa? È verosimile, perché soltanto la nostra associazione, che è una delle più impegnate, ha ricevuto veramente centinaia di segnalazioni. Gli articoli che stiamo scrivendo su Reazione hanno migliaia di lettori, per cui è verosimile questa cifra. E questi clienti sono diffusi in tutta Italia, perché questi punti vendita, insomma, erano 40 addirittura in tutta Italia, e quindi ci sono delle zone particolarmente problematiche dove ci sono stati parecchi problemi, delle altre un po' meno, però è diffuso un po' in tutta Italia questa questione. Infatti se ne occupa non solo la nostra sede di Milano, ma anche le varie sedi sul territorio. Va bene, tra poco entriamo nel dettaglio proprio sul caso Iazione. Prima vorrei chiedere al presidente Allegretti, di norma, cosa succede quando chi ha stipulato un contratto di finanziamento, quindi un contratto di credito al consumo, non ottiene la merce, per la quale magari invece deve pagare rate per anni. Bene, noi ci troviamo, parlando del caso Iazione, di considerare l'articolo 42 del vecchio codice del consumo, che fortunatamente adesso è stato sostanzialmente modificato, in quanto dal 16 maggio finalmente entra in vigore la nuova direttiva prevista nella legge 141, che si riferisce al recepimento della direttiva 2008, che ha proprio come tema la tutela del contratto del credito a favore del consumatore. Quindi purtroppo dobbiamo dire che queste attività si sono svolte precedentemente, e nonostante ci sia un articolo specifico, il 42, che parlava nel vecchio codice del consumo dell'inadempimento del fornitore, in effetti nel caso in cui il fornitore non avesse consegnato il bene o ci fossero state delle contestazioni, difficilmente il cliente poteva sospendere il pagamento e poteva avere indietro quanto pagato. Dal 16 di maggio di quest'anno, fortunatamente, viene completamente ridisegnata la problematica relativa agli adempimenti del fornitore, e quindi se ci fossimo trovati a discutere questo caso al giugno non ci sarebbe stato alcun problema, perché la legge prescrive assolutamente che il fornitore se la veda direttamente con la società finanziaria, e che il cliente con una sola emissione raccomandata non solo può bloccare i pagamenti, ma è obbligata la società finanziaria a restituire tutte le somme che il cliente aveva già versato. Quindi purtroppo questi signori si trovano con le vecchie indicazioni del codice, e quindi quello che si sta facendo adesso è lasciato alla libera disponibilità delle società finanziarie e alla validità delle associazioni dei consumatori, che sono intervenute, come abbiamo sentito, bloccando i futuri pagamenti. Però per quelli che hanno già pagato e per le somme già versate, mi sembra che difficilmente i consumatori potranno riavere quelle somme. Tra poco sentiamo Mirko da Milano, ci ha raggiunto all'800 24 00 24, continuate a scrivere messaggi al 349 238 6666. Questo per quanto riguarda la normativa in generale. Però ecco, Avvocato Ferrari, c'è stato un incontro tra le associazioni di consumatori e le finanziarie che hanno concesso i finanziamenti. Sì. Qualcosa abbiamo già sentito nella nostra scheda, può raccontarci com'è andata, ma soprattutto quali sono gli scenari futuri? Ma dunque, gli scenari, intanto l'incontro c'è stato presso Assofin, con in particolare con Fiditalia, per decidere di questi finanziamenti a Iazione. È ovvio che la finanziaria non può sospendere tutti i finanziamenti, perché non è in grado di sapere chi ha ricevuto i mobili e chi non li ha ricevuti. E quindi il ruolo delle associazioni di consumatori, una cosa che noi stiamo già facendo, è quello di trasmettere i dati delle persone che non hanno ricevuto il mobilio o che lo hanno ricevuto soltanto in parte, chiedendo in primo luogo la sospensione delle rate, e su questo la finanziaria è d'accordo. In secondo luogo, la richiesta che noi facciamo è quella della risoluzione del rapporto, cioè l'interruzione dei pagamenti va bene, ma anche il rimborso delle rate già pagate e la chiusura, l'estinzione totale del finanziamento. Se ovviamente su questo la finanziaria per ora sia un pochettino riservata di valutare i casi e anche di vedere come saranno le sorti della società, faccia pure queste valutazioni. Da parte nostra resta questa richiesta, per cui una volta ottenuta la sospensione dei pagamenti, se non ci sarà la risoluzione dei contratti, saremo costretti ovviamente a ricorrere al giudice o all'arbitro bancario finanziario per ottenere questo effetto. Quindi insomma la speranza c'è di riavere anche le rate già pagate? Senz'altro, sì, perché non solo le modifiche al testo unico bancario prevedono il rimborso delle rate già pagate, ma questo è un principio che era già stato affermato ormai da più di un anno, anche due anni, dalla Suprema Corte di Cassazione con ben due sentenze e dalla Corte di Giustizia Europea. Quindi è una novità legislativa, ma non è una novità di orientamento del legislatore, e cito anche lo stesso arbitro bancario e finanziario della Banca d'Italia, che per un finanziamento risalente a prima di queste modifiche ha già deciso che devono essere rimborsate integralmente le rate, e parlo di un caso dei primi del 2010, per cui è così. Mirko da Milano, ben trovato. Sì, buongiorno. Io adesso volevo anche capire un attimino, cioè Bolzano era quello che ha fatto, che c'entrava con il Torino, giusto? E l'ex presidente del Torino Calcio. Ma che aveva avuto problemi con la società del Torino, giusto? Diciamo che è uno di coloro che sono finiti in manette, avvocato Ferrari. Sì, era l'ex presidente ed è uno di quelli finiti in manette, e qua ora... Poi non voglio distrarre sulla domanda che vuole fare l'ascoltatore, però la questione, la finanziaria si qualifica lei stessa, diciamo, come vittima di questo caso, la Fiditalia, e in parte è anche vero, però un conto è il singolo consumatore che va a comprarsi la cucina, un conto è una finanziaria che apre migliaia di finanziamenti, dovrebbe fare il rating sui propri clienti, valutare attentamente e magari erogare le somme quando ha conferma della venuta consegna. Ecco, su questo sentiremo anche Allegretti, però sentiamo Mirko da Milano, forse voleva riferirsi a questo. Mirko, prego. No, perché c'erano appunto come amministratori oppure soci della società, persone che magari avevano già avuto delle macchie morali più che altro, cioè in passato. Però chi è nel settore dei mobili sapeva benissimo che era una società che veniva da precedenti oscuri, più che altro c'è, perché anche la catena per sempre mi sembra che c'entri, cioè nel senso ha rilevato la catena, cioè i punti vendita per sempre arredamenti, prima c'entrava qualcosa? Avvocato Ferrari. Mi pare che c'entrassero anche con per sempre arredamenti, però non ne posso essere certo, ecco, questo non lo so. Ma neanch'io, però il discorso è questo, l'affidabilità della società era certa, perché le assicurazioni alle aziende che fornivano comunque la merce veniva data una credibilità. Qui bisogna anche parlare un attimino allora anche del sistema bancario, perché il discorso che le assicurazioni assicuravano la società, poi non so cosa sia stato in verità e tutto è crollato. Mirko, mi tolgo una curiosità, lei ha acquistato dei mobili da Iaccione oppure no, ha seguito solo la vicenda? No, io sono nel settore, a livello proprio di produzione, le cose si sapevano abbastanza, però il discorso è che comunque era una società assicurata, credibile, e che poi cada il castello da un mese all'altro mi sembra abbastanza... La ringrazio Mirko. Presidente Allegretti, c'è stata anche una leggerezza da parte delle finanziarie? Guardi, prima, diciamo così, c'era un po' la corsa da parte delle finanziarie a sottoscrivere contratti con i venditori di beni per la possibilità di fare questo credito al consumo, che è un credito al consumo finalizzato, cioè specificatamente indicato all'acquisto di quel bene. Adesso, come diceva correttamente prima anche l'avvocato Ferrari, cambia tutto, perché cambiando i rapporti in campo, le società finanziarie dovranno essere molto attenti alle società che forniscono beni o servizi alle quali poter concedere la possibilità di far sottoscrivere ai propri clienti contratti di finanziamento, perché nel caso in cui il cliente, quindi il consumatore, non abbia i beni consegnati oppure li contesti, può immediatamente bloccare il pagamento. In più, il secondo comma dell'articolo 125 dice che la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore tutte le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Quindi in questa maniera anche le società finanziarie e le banche dovranno stare attentissime a chi dare questa possibilità. D'ora in poi però, d'ora in poi. Prego? D'ora in poi. D'ora in poi, ecco, sì. Purtroppo questo non vale bilancio, nel passato. Lo voglio sottolineare. Va bene. Un ascoltatore che non si firma ci scrive: ho stipulato un contratto per l'acquisto di una camera con M Lunga di Corsico in settembre 2010. Ad oggi non ho ricevuto nulla. Come posso fare per riavere l'anticipo che ho dovuto versare? Ed è un cliente a Iazzone anche Bruno da Roma. Ci ha raggiunto all'800 24 00 24. Ben trovato, Bruno. Sì, ecco, io a settembre ho visto un giorno di commercio da Iazzone, però il contratto l'ho firmato dopo a media. Il contratto la sentiamo malissimo, urli un po' di più. Sì, pronto? Mi sente? Deve urlare, sì, dica. Sì, ecco, io ho fatto un contratto per a media, in ogni modo fuori al negozio c'era Iazzone a Pomezia, e ho dato un anticipo di 1.100 euro su una spesa di circa 4.000. E da settembre mi avevano detto che a novembre mi avrebbero mandato il soggiorno, però purtroppo fino ad oggi nulla. Allora io mi hanno consigliato di fare una denuncia per truffa, chiedevo se devo fare qualche altra cosa. La ringrazio, Bruno. Allora, avvocato Ferrari, innanzitutto come si devono muovere questi clienti M Lunga o Aviazione? Il nostro ascoltatore ci scrive appunto che sto aspettando il soggiorno, diciamo che può dimenticarselo, no? Direi proprio di sì, per quello che ci risulta ad ora. Quindi, vabbè, dimentichiamo la camera o il soggiorno, ma cosa fare e come muoversi? Beh, la prima cosa da fare, per chi non l'avesse ancora fatto, è mandare una diffida da adempiere, cioè si devono dare 15 giorni per la consegna, perché comunque la società tuttora non è fallita, per cui la diffida da adempiere conserva un suo valore anche ai fini della risoluzione del contratto di finanziamento o comunque ai fini della risoluzione del contratto con il mobilificio. Una volta che sono decorsi inutilmente i 15 giorni, il contratto è risolto e quindi a quel punto, se la società fallirà, sarà necessario insinuarsi al passivo. L'idea della truffa, della denuncia per truffa, è comunque valida ed è, infatti, noi per i nostri associati stiamo mettendo a disposizione proprio dei modelli di querela da presentare. Perché, visto che sono stati sequestrati i beni per qualche milione di euro, una cinquantina di milioni di euro a questi signori che sono stati arrestati, è opportuno fare la denuncia per truffa per poi successivamente potersi costituire parte civile. E la truffa ci sta nella misura in cui appunto non è soltanto una difficoltà momentanea, ma è aver continuato a vendere pur sapendo chiaramente delle difficoltà dell'azienda e delle impossibilità sostanziali di consegnare. Sentiamo un'altra chiamata, quella di Ferdinando da Milano. Buongiorno. Buongiorno, io volevo suggerire una norma di due righe. Una persona va a comprare una cosa, no, quella che gliela vende probabilmente non ce l'ha neanche in casa, lui l'acquisisce e la paga a 30 giorni. Di conseguenza lui fa la pratica per il prestito, ma il prestito va in vigore, incomincia il pagamento da quando lui ha consegnato la roba. Lui mi porta la roba a casa, io gli firmo che parte il prestito. È giusto fare le pratiche prima per vedere se io posso affrontare un prestito o meno, no? Ma per evitare a tutte queste truffe e queste cose, le autorità finanziarie fanno una norma di due righe: tu mi porti la roba a casa, io ti metto la firma che può partire il prestito. E di conseguenza finisce lì la discussione. Grazie Ferdinando. Eustachio Allegretti, è percorribile la strada che ci delinea il nostro ascoltatore? La verità in genere dovrebbe essere così, attenzione. Cioè il fatto che uno firmi la documentazione richiedendo un prestito, in ogni caso il prestito dovrebbe obbligatoriamente partire nel momento in cui la merce è stata consegnata e contestualmente il cliente non l'ha contestata. Purtroppo spesso, come lei diceva, si è molto superficiali nella lettura delle condizioni di finanziamento e si fa poca attenzione alle cosiddette condizioni accessorie e ai costi aggiuntivi, e invece un buon consumatore dovrebbe leggere con attenzione tutte le parti del contratto, anche perché proprio nel discorso di Iazzone io ho visto che c'erano alcune clausole assolutamente vessatorie nei riguardi dei clienti, e mi sembra che almeno al momento della sottoscrizione nessun cliente si sia premurato di leggerlo con l'attenzione. Ecco, poi il primo consiglio in ogni caso è quello di leggere con grossa attenzione tutte le clausole contrattuali. Ecco, poi se abbiamo tempo le chiederò quali sono le clausole più importanti su cui concentrarci, però ha parlato di clausole vessatorie nel contratto di Iazzone, quali erano? Senta, mi sembra che c'era una clausola che diceva che in caso di ritardo di consegna del bene, addirittura era il cliente che era tenuto a pagare una penale del 7% sul prezzo del bene per ritardo del pagamento, quindi in poche parole si addossava al cliente il costo relativo alla mancata consegna del bene. Avvocato Ferrari, un ascoltatore, Daniele, ci scrive: se la diffida per raccomandata non viene ritirata? Beh, quando torna indietro per compiuta giacenza comunque è valido lo stesso con la comunicazione, cioè se non viene ritirata equivale comunque ad averla inviata. Vorrei sottolineare su questo episodio brutto di Iazzone che le finanziarie dovrebbero cogliere l'occasione di evidenziare invece che chi fa un finanziamento ha delle maggiori tutele, cioè le persone che hanno pagato dei consistenti acconti o addirittura l'intero prezzo in contanti oggi si trovano assolutamente a piedi. Chi ha fatto un finanziamento tutto sommato non è in questa situazione perché può richiedere il rimborso. Quindi questa è una situazione positiva per queste persone, anche se ci sono queste difficoltà di cui stiamo parlando. Per cui le finanziarie valorizzino pure questo aspetto, però poi siano rigorose nel rimborsare quando non avviene la consegna. Ecco, chi invece ha pagato, ma insomma ci sono persone che pagano tutto l'importo prima di aversi consegnata la merce? Nel caso di Iazzone ci sono, le risultano? Ci sono stati dei casi, diciamo, che hanno pagato tutto o hanno pagato degli acconti pesantissimi, magari nell'ordine di diverse migliaia di euro. Ecco, loro nulla possono fare? Loro possono fare, possono costituirsi parte civile se viene fatta una denuncia, oppure possono richiedere con insinuazione al passivo, nel caso fallisse la società, il rimborso di quanto hanno anticipato. Chiaramente si tratta di creditori cosiddetti chirografari, quindi gli ultimi che vengono pagati, e quindi bisogna vedere se c'è sostanza per soddisfare il loro credito. Intanto un ascoltatore ci informa: la previa consegna esiste già nel leasing, non si muove un euro se non c'è consegna. 349-238-6666, questo è il numero per i vostri sms, invece per le vostre telefonate è gratuito 800-24-0024. Andiamo a Napoli da Salvatore. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sto sentendo cose che per me sono assurde, cioè io faccio credito al consumo, cioè praticamente ho la convenzione e faccio la vendita. Nel momento in cui vendo un prodotto, se non ho già consegnato, la finanziaria a me il bonifico non me lo fa, per tutelare il cliente, quindi la telefonata preventiva per vedere se tutto è ok, poi la telefonata per vedere se hanno ricevuto la merce, da quel punto poi mi fanno il bonifico, e io dal momento in cui faccio la vendita passano 15-20 giorni per avere i soldi sul conto. Non ho capito perché il mio cliente dovrebbe essere truffato da me o dalla finanziaria o da chi per essi, cioè è un assurdo, cioè come fanno la telefonata per dire: sentite, siete voi la signora Tal dei Tali? Ok, avete comprato? Sì, ok, ve l'è già stato consegnato? No, allora il bonifico aspettiamo fino a qua, non arriva la bolla dove c'è stata la firma del cliente che avevo ricevuto la merce. Questo per me è un assurdo che sento per radio. Sono anni ormai, nessun mio cliente potrebbe mai avere una truffa dal sottoscritto, in quanto io ricevo i soldi dalla finanziaria solo quando ho già consegnato. Se lei non dà la merce, lei non prende una lira praticamente. Esatto, è una cosa normalissima, cioè non ci vedo niente di strano. Che io devo aspettare 15 giorni, 10 giorni per avere i soldi sul conto, mi sembra pure giusto per tutelare il consumatore, perché almeno per il passato c'era gente che firmava il finanziamento, firmava tutto, dopodiché non riceveva la merce. Ecco. Non lo so, nel caso di Iazzone evidentemente non è andata così. Eustachio Allegretti, ma è tutto alla rovescia, sì. Cioè, è possibile che un piccolino qualsiasi fa fare i finanziamenti perché fa vedere chissà che cosa, paradisi in terra, e poi fa una piglia soldi su tutti i fronti e sappiamo come va la cosa, poi vabbè, se faranno pure qualche giorno di carcere, però tutto finisce là. Ma Eustachio, io penso proprio che 30 anni non si fanno, però intanto hanno rovinato migliaia e migliaia di famiglie. Rovinato speriamo di no, però sicuramente insomma gli hanno portato un notevole nocumento, per usare una parola forbita. Eustachio Allegretti, ma qual è la regola? Beh, La regola è quello che ha detto il signor Di Napoli, purtroppo non tutti i commercianti, come per tutte le categorie professionali, sono onesti e ci sono i truffatori, quindi bisogna essere, non dico prevenuti nel momento in cui uno sottoscrive un contratto di finanziamento o fa un ordine soggetto a un finanziamento, però deve essere molto attento. Perché è chiaro che il signore Di Napoli che ha chiamato è una persona molto precisa, gli accordi con le finanziarie sono altrettanto chiari, chiamano sempre il cliente per avere la conferma telefonica che il bene è stato veramente consegnato e soltanto dopo fanno il bonifico di pagamento al fornitore della merce, ma non sempre avviene così. Non è sempre tutto chiaro, perché se no non ci sarebbe stata la necessità di ritornare più volte anche da parte della Comunità Europea sulla necessità di tutelare con contratti di credito molto attenti il consumatore. Sentiamo Loris da Milano, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'opportunità. Ci mancherebbe. Dunque io ho comprato, sono l'ascoltatore che ha mandato un messaggio, se mi sono dimenticato di firmarlo, mi scuso. Ah ecco, ho comprato, mi scuso. Non importa, sei fatto vivo su più fronti. Ho comprato appunto una camera mobilificio Melunga di Corsico nel settembre 2010. Il segno doveva venire a novembre, è passato novembre, è passato dicembre, non riesce a parlare con nessuno, dei numeri verdi, sì, la merce è arrivata, le sarà consegnata, A tutt'oggi non ho visto nulla. Sono uno di quelli, tra virgolette, fortunati, in quanto l'anticipo non era una grandissima somma. E chiedevo se c'era la possibilità di riavere l'anticipo che ho versato, anche se mi hanno detto che, insomma, probabilmente ho fatto tutto in cavalleria. Certo. Buonanotte, ecco. Avvocato Ferrari, sì, torniamo su questo punto. Ma, allora, come abbiamo detto anche prima, le vie sono quelle di insinuarsi eventualmente al passivo di un fallimento, di fare una denuncia, ci sono effettivamente poche possibilità sicuramente di avere tutto indietro, una parte è possibile forse riaverla, certo è che rivolgersi a un avvocato costa e si rischia di rimetterci di più rispetto a quello che poi eventualmente può essere la cifra che si riesce ad avere indietro. In questo diciamo che è positivo il ruolo delle associazioni di consumatori che possono con costi ridottissimi aiutare tanta gente, perché poi si tratta tutto sommato di un lavoro ripetitivo. Ecco, avvocato Ferrari, il caso di Aiazzone non è certo il primo di questo genere, ve ne sono stati altri in passato. In quei casi com'è andata, intendo dire, dal punto di vista dei consumatori e dei clienti? Ma ci sono noi in casi del genere, il più rilevante che abbiamo seguito recentemente è quello dei viaggi del ventaglio, in cui abbiamo presentato centinaia di insinuazioni al passivo, adesso vedremo, è possibile che qualcosa venga recuperato. Per quanto riguarda un discorso analogo sui finanziamenti, ci è successo con una scuola di inglese, la Worldwide, la quale ha chiuso dall'oggi al domani, ha lasciato tanti studenti in panne e di nuovo anche loro col finanziamento sulla schiena. E questo è di nuovo un comportamento condannabile, a mio parere, da parte delle finanziarie, cioè far ricorrere al finanziamento, rendere allettanti per gli imprenditori il ricorso al finanziamento anche in casi in cui ordinariamente non lo si faceva, cioè di solito la scuola d'inglese uno mese per mese si pagava la sua rata, non aveva bisogno di farsi. E senta, gli studenti hanno riottenuto i loro soldi o no? Gli studenti, alcuni sì, hanno riottenuto i loro soldi, quelli che hanno fatto il finanziamento li abbiamo costretto a restituire. Ecco, quindi i precedenti fanno ben sperare. Sì, guardi, io su questo discorso dei finanziamenti sono assolutamente certo che queste somme debbano essere rimborsate, perché evidentemente c'è stato un comportamento un pochettino alla leggera, sulla base di una vecchia disciplina. Lei prima diceva, ma c'è qualche altra finanziaria? Sicuramente c'è qualche finanziaria che ha fatto pochissimi finanziamenti. Perché? Perché prima c'era una norma che diceva che questo discorso che stiamo facendo, se non ti consegnano la merce hai diritto di avere i soldi indietro, valeva soltanto se c'era un contratto di esclusiva. Allora che cosa faceva un soggetto tipo Aiazzone? Faceva 10.000 finanziamenti con una finanziaria, 3 con un'altra, e diceva, vedi, non è in esclusiva, quindi a questo punto la finanziaria poteva tranquillamente rispondere, non ti restituisco niente perché la norma mi dice che devo restituire solo se c'è un rapporto di esclusiva. Va bene, sentiamo Stefano da Lucca, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi chiamo Giannini, telefono da Polcani, in provincia di Lucca. Io volevo semplicemente contestare quanto ha detto uno dei suoi ospiti poco fa, che quando si va a firmare un contratto di finanziamento o un contratto in genere è opportuno leggere con attenzione tutte le norme, tutte le clausole e ve le scorrendo. È chiaro che è sempre buona norma leggere prima quello che si va a firmare. Questo, io ho 39 anni. Questo è sacrosanto, no? D'accordo. Me l'hanno insegnato anche a scuola 20 anni fa, che era opportuno sempre leggere prima quello che si firma. Però? Però io ho avuto occasione, giusto una settimana fa, di andare a aprire un conto corrente in una banca, quindi un normalissimo contratto di conto corrente. Mi sono trovato di fronte a decine di fogli scritti su più colonne e piccolissimi, con migliaia di clausole, migliaia di norme, migliaia di riferimenti, e io che sono ragioniere, quindi insomma bene o male qualcosina ci capisco, mi sono completamente astenuto dal leggerli, perché ovviamente ci potevo stare una giornata a leggerli tutti, e poi dubito che qualcun altro, diciamo chi è meno pratico, possa capirci. Quindi Stefano, lei non contesta quello che ha detto Eustachio Legretti, cioè sacrosanto leggere quello che si firma, però lei dice che si firma, però è impossibile nella pratica leggere e capire quello che si firma. Lo rendono impossibile. Assolutamente, ma non è che lo rendono impossibile, diciamo in maniera fraudolenta. Lo complica. Ci sono delle norme comunque in Italia che complicano la stesura di determinati contratti e che rendono impossibile poi l'utente finale la lettura e la comprensione di quello che si va a firmare. Tutto qua. La ringrazio Stefano. Presidente Allegretti. Beh, in effetti tutto quello che parliamo di modulistica relativo ai finanziamenti o all'apertura di conti eccetera, obiettivamente stiamo cercando di intervenire anche noi chiedendo maggiore chiarezza alle banche e una diminuzione notevole della documentazione da consegnare al cliente, perché consideri, con tutte le nuove norme che vanno in vigore adesso da maggio, qualche giorno fa in Banca d'Italia mi sono permesso di dire che ogni volta che un cliente entra in un'agenzia o in una banca, se vogliamo consegnare tutta la documentazione cartacea, ogni volta dobbiamo abbattere un albero in Amazzonia. Quindi bisognerebbe tentare, invece di avere di consegnare una documentazione più ristretta, ma gli aspetti fondamentali, quelli che riguardano effettivamente i costi da sostenere per il cliente, perché tutta una normativa di carattere generale certamente non ha significato. In ogni caso, io il consiglio che posso dare all'ascoltatore, cosa che ho fatto anch'io, mi sono fatto stampare dalla banca il contratto di apertura di conto corrente, me lo sono portato a casa, nottetempo me lo sono letto, il giorno dopo l'ho riportato. Tutta la notte ha trascorso così. In genere sono 24-28 pagine, insomma, ha ragione l'ascoltatore, però bisogna ci vuole un po' troppa energia. Per i cosiddetti costi occulti, che spesso ci sono. Va bene, dobbiamo salutarci, il nostro tempo a disposizione finisce qui. Grazie Eustachio Allegretti, presidente di Assomea, presto. Grazie, altrettanto a lei un saluto agli ascoltatori. Assomea.org, grazie all'avvocato Giovanni Ferrari, che è il presidente dell'associazione Casa del Consumatore. Buon lavoro. Grazie a voi. www.casadelconsumatore.it è il sito. E prima di salutarci, il nostro spazio dedicato al risparmio gestito. Vi ricordo che è sempre attivo il nuovo servizio di segreteria telefonica di Salvadanaio in collaborazione con Assogestioni e il Salone del Risparmio, che sarà a Milano il 6, il 7 e l'8 aprile. Se avete delle domande in tema di risparmio gestito, avete dei nodi da sciogliere, potete chiamare questo numero 800 28 12 12. Grazie all'aiuto degli esperti abbiamo iniziato a rispondere ai vostri quesiti. Allora sentiamo la domanda di oggi. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Sì, buongiorno. Chiamavo per chiedervi una informazione. Il mio consulente mi ha consigliato di investire in fondi flessibili. Volevo sapere di cosa si tratta e se sono simili ai fondi bilanciati. Grazie. I fondi flessibili sono molto recenti, assomigliano ai fondi bilanciati in quanto possono detenere in portafoglio sia titoli azionari che obbligazionari, ma al contrario dei bilanciati i fondi flessibili non hanno nessuna limitazione nella percentuale di azionario che possono detenere in portafoglio. Infatti si può avere il 100% di azioni come non averle per niente, la scelta è del gestore secondo le sue aspettative dei mercati azionari. Il fondo flessibile non ha nessun benchmark che limiti la discrezionalità del gestore nelle scelte di investimento. Questo significa che il rendimento del fondo è tutto legato ai meriti di chi gestisce il portafoglio titoli. Salone del Risparmio, a Milano dal 6 aprile. Iscriviti gratis, salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato Le domande del risparmio. È tutto per oggi, grazie Gaio Romani in redazione, a Fabio Cantadoni in regia, a voi per l'ascolto. Una buona giornata e un buon fine settimana da Roberta Pellegatta.